America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, si è dunque chiusa un'epoca, lo avevamo anticipato ieri, la Federal Reserve ha deciso di aumentare i tassi di interesse, non più una variazione tra lo 0 e lo 0,25%, ma tra lo 0,25% e lo 0,50%. Parliamo pur sempre di tassi straordinariamente bassi, una decisione storica perché avviene dopo 9 anni di politica monetaria accomodante, ma non una decisione che ha lasciato un impatto sul mercato. Del resto anche questo ce lo aspettavamo. Sentiamo Janet Yellen, presidente del Consiglio dei Governatori della Banca Centrale Americana. As I will explain, the process of normalizing interest rates is likely to proceed gradually. Ecco, la Yellen dice: i tassi di interesse americani dovrebbero continuare a salire in modo graduale e comunque lento. Detto questo, non bisognerebbe dare eccessiva importanza al primo rialzo. Ecco, la Yellen in questa frase, ce ne sono state altre, ma in questa affermazione dà l'idea di quello che è il nuovo corso della Banca Centrale Americana, perché questa svolta della Fed afferma in realtà l'idea di una nuova normalità in materia di politica monetaria. Cioè, non è più normale attendersi aumenti regolari e rapidi dei tassi come sempre accaduto tra il 1970 e il 2006. Non è più normale alzare i tassi per evitare surriscaldamenti dell'economia che potrebbero richiedere frenate recessive. Anzi, sappiamo che rischiamo la deflazione. Non è più normale aumentare di conseguenza i tassi magari di 50 punti base come capitava negli anni difficili per l'inflazione. Il nuovo normale di Janet Yellen prevede che i tassi sui Fed Fund, cioè i tassi interbancari, arrivino per la fine del 2016 a quota 1,375%, con soli 4 altri aumenti di 25 punti base ciascuno, di fatto già annunciati per l'anno prossimo, dopo quello di ieri naturalmente, quindi complessivamente 5 aumenti. Ecco, e questo, come vi dicevo, è l'elemento più importante emerso dalle dichiarazioni della Yellen dopo 2 giorni di riunioni del Federal Open Market Committee, che è il comitato monetario della Federal Reserve, cioè la svolta verso aumenti preannunciati molto contenuti dei tassi. Ecco, questo, magari lo ripeto, la svolta verso aumenti preannunciati e molto contenuti dei tassi. Di più, la Yellen ci conferma che il percorso di crescita dell'economia americana si è modificato sul piano strutturale insieme a quello dell'inflazione. Anche questo, se vogliamo, fa parte della nuova normalità in cui si trova il pianeta America. Although future policy actions will obviously depend on how the economy evolves relative to our objectives. Di nuovo la Yellen che dice: gli sviluppi economici all'estero continuano a porre un rischio per la crescita americana, ma i rischi sono diminuiti rispetto all'estate scorsa. Ecco, qui la Yellen in qualche modo giustifica, spiega perché non ha deciso di aumentarli prima questi tassi di interesse, e molti di noi se lo aspettavano, io stesso in questa trasmissione più volte rivendicavo che ci fosse questo aumento, addirittura come dimostrazione di leadership da parte della Federal Reserve. Qui la Yellen si riferisce alla crisi cinese che aveva creato un piccolo problema di borsa. C'è stato un piccolo, breve, per fortuna, momento di panico con cadute dei valori di borsa. Ecco, la Yellen ci dice che questa crisi di fatto in questo momento è rientrato. Ma credo che meriti cercare di dare uno sguardo d'insieme, perché ne abbiamo parlato ieri, ne hanno parlato tutti i giornali, cercare uno sguardo d'insieme a questo significato storico lungo questi 9 anni di questa scelta della Fed e della scelta di ieri, anche guardando in avanti, perché la Fed ha cominciato subito ad affrontare la crisi. Ricordiamolo, c'era Ben Bernanke, perché oggi non possiamo dimenticare il ruolo del governatore Bernanke, il grande esperto di recessione, la persona che è riuscito immediatamente con grande rapidità a mettere in moto la Banca Centrale Americana. Quindi è la giornata della Yellen, ma è anche una svolta che in qualche modo chiude un momento evento storico che ha riguardato questo grande governatore della Fed, appunto Ben Bernanke. Fu lui che cominciò le manovre di quantitative easing, fu lui che, quando l'Europa tentennava, non capiva che c'erano nuove dinamiche deflazionistiche, soprattutto per via delle reticenze tedesche, ecco, fu lui che non solo portò l'America sul cammino della crescita di liquidità e di quantitative easing e così via, così via. E lavorò, tra l'altro, in tandem proprio con Janet Yellen. Lui, Bernanke, di estrazione repubblicana, la Yellen, di estrazione democratica. E beh, questo è una conferma, la conferma importante della differenza di questa nuova normalità americana è che l'istituzione prevale sulla politica, soprattutto nel momento del bisogno. Ecco, non è un caso se i repubblicani, come dire, non sopportino questa autonomia, questa indipendenza della Federal Reserve, è uno strumento potentissimo di intervento sull'economia. Anche i democratici, secondo me, qualcuno dei democratici vorrebbe qualche controllo. Perché? E perché con un controllo più serrato della banca centrale americana, beh, si può avere uno strumento politico, ma l'introduzione di questi controlli, secondo me, non avverrà, non può avvenire, anche perché i più conservatori fra i repubblicani sanno benissimo che il contraccolpo per la fiducia nell'economia americana sarebbe pericolosissimo. E una seconda conferma di questo nuovo normale, di questa differenza fra noi e l'Europa, riguarda il prevalere della flessibilità e dell'indipendenza contro la rigidità. In Europa, dove sono prevalsi modelli di austerità e di rigidità fiscale, ci troviamo oggi indietro rispetto all'America. Insomma, abbiamo perso almeno 3 anni di crescita potenziale. Ecco, si tratta di capire ora fino a che punto arriverà questo nuovo normale di cui oggi dobbiamo prendere atto anche in Europa, sia dal punto di vista dell'analisi economica sia da quello della politica. Qui le problematiche ovviamente sono molto diverse qui in America. Ecco, qui in America il nuovo normale della Fed può essere allargato a sfide storiche, prima di tutto quella di una debolezza sconosciuta della classe media, del gap fra tecnologia e addestramento, cioè l'innovazione tecnologica che alla fine crea disoccupati, i quali non riescono più a trovare un lavoro perché non sono preparati per le nuove tecnologie. C'è il pericolo di una crisi strutturale della domanda e così via. Sono sfide secolari, c'è un rischio di stagnazione secolare, come ama ripetere per esempio Larry Summers, l'economista democratico di Bill Clinton e Barack Obama, che nel momento peggiore della crisi fu chiamato a governare la successione fra George W. Bush e Barack Obama, nella stanza dei bottoni repubblicana, lavorando con Hank Paulson, il repubblicano Hank Paulson, ministro del tesoro di George W. Bush. Ecco, i due insieme misero a punto a tempo di record un piano di stimoli fiscali che consentì all'America, insieme alla politica monetaria, di uscire rapidamente da questa lunga crisi. Anche quello era un nuovo normale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, lei, da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, continuiamo con le canzoni natalizie classiche. Siamo esattamente a una settimana dal Natale e dunque godetevi di Elvis Presley, White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those trees are glistening and children listen to hear sleigh bells in the snow. Christmas, just like the ones I your Christmases be white. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.